Respiro. Buongiorno e benvenuti a Respiro, io sono Cristina Carpinelli, iniziamo questo nuovo ciclo di trasmissioni della domenica. Per l'occasione abbiamo voluto trattare un tema del quale sembra si parli molto, ma in realtà a ben vedere non abbastanza: l'inquinamento atmosferico. Ogni anno diciamo la stessa cosa, ogni anno qualche vaga risposta istituzionale, risposte che si fanno sempre più rare, e Legambiente come ogni anno pubblica Malaria. Malaria 2009 dice che quello trascorso è stato un anno faticoso, l'ennesimo anno irrespirabile nelle grandi città italiane. Allora, partiamo dal fatto che la normativa prevede un limite giornaliero di polveri sottili, quindi per la protezione della salute umana, di 50 microgrammi a metro cubo di polveri sottili da non superare più di 35 volte in un anno. Ecco, detto questo, sappiamo che il 65% delle città monitorate ha superato per lungo tempo questi limiti. La città più colpita dalle polveri sottili risulta essere Napoli, con ben 156 superamenti, seguita poi da Torino con 151, Ancona con 129, Mantova 126 superamenti e Ravenna anche 126, Frosinone 122, Milano 108. Un po' più in basso nella classifica troviamo i 67 superamenti di Roma. Allora, cosa c'è che non funziona? E perché se si va in piazza per tantissimi motivi non si fa sentire invece la propria voce proprio quando si parla di aria? Lo abbiamo chiesto, e questa è appunto stata la domanda di apertura dell'intervista che abbiamo fatto ad Andrea Poggio di Legambiente Lombardia. Ma credo che non sia una questione di sensibilità della cittadinanza, perché questa c'è in Italia e come. Basti pensare a quello che succede in tutte le città della pianura padana, che sono di gran lunga quelle più inquinate, a causa certamente delle condizioni meteorologiche. Si sa che in pianura padana, come in tutte le aree continentali, maggiormente frequente periodi in cui si concentrano e si accumulano gli inquinanti per giorni. Il problema, nel mio modo di vedere, è essenzialmente la classe dirigente e la classe politica che ci dirige. Però c'è una delle parti pesanti sull'inquinamento atmosferico deriva dall'utilizzo dell'automobile, sono i singoli, no, che la prendono l'auto, per cui è vero che c'è un problema istituzionale, ma c'è anche un problema di responsabilità individuale. Questo è probabilmente vero soprattutto laddove c'è un'alternativa, un mezzo pubblico che funzioni e la possibilità di andare in bicicletta. E credo che nelle città il cambiamento anche della mentalità della gente sia ormai percepibile, reale. Basta vedere la quantità di persone che a loro rischio e pericolo decidono comunque di pedalare in mezzo al traffico. Basti vedere i dati stessi della registrazione della motorizzazione civile dei veicoli. Stanno calando ormai i veicoli nelle città. Però mi scusi, leggo dal vostro dossier presentato che di fatto lei dice che sta migliorando, no, la situazione per quanto riguarda il traffico. Io da ciclista... Io ho la sensazione che sia invece immobile, no, se non peggiorata. E poi vedo dai vostri dati che è proprio così, cioè rispetto alla media europea il nostro parco auto continua a crescere, non a pari rispetto ad altri paesi dell'Europa. Quindi non riesco a capire, cioè, lei cosa sta cercando di dire ai nostri ascoltatori? Che sta cambiando un certo modo di pensare la città, però che non ci sono i mezzi per poi abbandonare l'auto? Ma credo di citare l'esperienza quotidiana di ciascuno di noi. Allora, prima di tutto confermo, l'aria delle nostre città è particolarmente inquinata. Lo è soprattutto in pianura padana per motivi meteorologici, ma lo è essenzialmente perché ci sono delle emissioni inquinanti, perché se nessuno inquinasse ovviamente non ci sarebbero veleni che si accumulano. Quali sono le cause di questi veleni? Anche le automobili, non solo le automobili. Dico solo che attenzione, le automobili si levano dalle strade con delle politiche che certo devono vedere la partecipazione della gente, ma delle politiche concertate delle pubbliche amministrazioni e dello Stato, che toglie un po' di automobili tra i piedi. Se tutti gli sforzi politici sono fatti per farci vendere sempre nuove auto, è evidente che noi andremo sempre in auto. Se le nostre strade saranno disegnate per andare andare in auto per essere pericolose per i pedoni, per i ciclisti, uno andrà sempre in automobili. Se i servizi pubblici sono nella tragedia in cui sono, perché gli unici investimenti che lo Stato fa sono per fare le autostrade e le linee ad alta velocità e si dimenticano dei pendolari, mannaggia, io che devo andare a scuola, al lavoro, ho poche alternative se non il motorino o l'automobile. Ecco, questo è quello che bisogna dire a gran voce, perché non c'è nessuna differenza culturale laddove c'è una raccolta differenziata per un italiano di fare la raccolta differenziata al pari degli altri europei. E la stessa cosa è successo quando le città si sono messe a fare delle politiche di promozione della bicicletta, Ferrara, Bolzano come esempi significativi. La tragedia è che invece noi abbiamo una classe politica buzzurra che si diverte ad andare all'estero e dire che è bello girare in bicicletta ad Amsterdam, ma non mi fa lo stesso ragionamento a Milano. Un'altra cosa che segnalavo e che segnalavo in un'altra puntata, ma che comunque vedo che non si sta risolvendo in niente, è il fatto che quella figura tanto sponsorizzata, no? Questo manager della mobilità, il mobility manager, in realtà dove ha potuto lavorare tranquillamente, liberamente, ha creato poi un cambiamento proprio nella mobilità. Invece in città come Milano, Napoli, Roma, so, ho parlato anche con l'associazione proprio dei mobility manager, che è proprio nera, insomma, la situazione. Questo perché? Beh, un mobility manager può fare tutti gli sforzi per cercare di convincere i propri colleghi a lasciare l'automobile, ma se non riesce a trovare una sponda in chi organizza i servizi pubblici o in chi fa l'offerta di mercato dei sistemi di trasporto, in modo tale da avvicinare il povero dipendente alla soluzione alternativa, non c'è verso, non lo si spunta. Quando ha funzionato il carpooling in California è perché si è detto: guardate che potete parcheggiare intorno al posto di lavoro soltanto se arrivate in tre. Sono cambiate le cose quando chi prendeva l'autostrada e doveva entrare nelle città ha cominciato a trovare la corsia libera soltanto ed esclusivamente nella corsia in cui si poteva viaggiare almeno in tre o in quattro in macchina. Allora lì c'è stata la differenza. Se è puro un invito a complicarci la vita, nessuno di noi ci avrà voglia di farlo. Ho fatto l'esempio del carpooling, ma vale per qualsiasi altra cosa. Per quale motivo è così difficile bypassare i sistemi fiscali per riuscire a dare in maniera detassata il bonus mobilità, esattamente come si dà il bonus per i pasti del lavoratore? Guardate che politica del lavoro è anche dare l'accessibilità al posto di lavoro, non soltanto dare da mangiare a chi lavora. Per quanto riguarda invece altre forme messe in atto in questi anni, una sulla quale c'è stata una grande discussione, contestazione, approvazione proprio sulla città di Milano, è stata l'applicazione dell'Eco. L'Ecopass è andato meravigliosamente bene per quello che era, una sperimentazione limitata per vedere se il sistema tecnologico riusciva a funzionare, cioè a vedere che una macchina che entrava dal numero di targa poteva entrare senza pagare oppure no, o pagando in maniera differenziata. Questa parte del sistema nessuno dice, ma ha funzionato.